più forte sapore, la conquista violenta che il bellifluo consenso. Io di sospiri e di lattiginosi almeno dari poco ma pago, non so trarre accordi di chitarra. Tal beffarda ironia, ch'io lo trassi in arresto.